Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Su 300 feriti negli attentati, almeno 61 sono gravissimi, dice il ministro della Sanità belga. Quasi impossibile al momento identificare i cadaveri. Attesa per le notizie sull'italiana Patricia Rizzo. Ancora in fuga uno dei terroristi nel giorno della prima udienza per Salah Abdeslam dopo l'attentato. L'ex ricercato accetta l'estradizione in Francia. Molti buchi nella prevenzione e nell'intelligence, accusa le forze dell'ordine belga al mancato coordinamento. I ministri degli interni provano a discuterne di nuovo oggi. In Iraq l'esercito prova ad avanzare contro la roccaforte ISIS di Mosul. In Siria sarebbe stata riconquistata dai militari di Assad una parte di Palmira. È stato trovato con mezzo chilo di cocaina, per la legge sono 3100 dosi, ma il giudice lo assolve, è ricco, si tratta di uso personale. Nessun licenziamento dalla fusione BPM Banco Popolare, dicono i vertici. All'indomani dell'annuncio i titoli dei due istituti scendono in borsa di oltre il 3%. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp, e effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere anche qualcosa di un po' più articolato. In apertura, dunque, anche oggi torniamo a Bruxelles, a due giorni dalle tre bombe che hanno sconvolto la città, con due esplosioni all'aeroporto che rimarrà chiuso anche nei prossimi giorni, e quella nella metropolitana alla stazione di Melbeck. Questa mattina l'aggiornamento sul numero delle vittime, che sono 32, e dei feriti, che sono 300, dei quali oltre 60, riferiscono le autorità, molto gravi. Tra un attimo arriveremo su questo e arriveremo anche sulle ricerche dell'italiana che al momento è ancora data per dispersa. Anche oggi però ripartiamo parlando delle indagini e della prima udienza dopo l'arresto per Salah Abdeslam, considerato tra le menti degli attacchi di Parigi a novembre e catturato poche ore prima di questi attacchi terroristici. Il punto con Maura Bertanson da Bruxelles. Maura, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone, ecco, l'ultima notizia è di pochi minuti fa, perché la polizia starebbe eseguendo due operazioni nel quartiere di Ixelles. Un quartiere etnico ma anche molto gettonato, dove vi sono moltissimi italiani. È stata chiusa un'area dove è stato fatto tutto un perimetro di sicurezza e dove sembra sia stata fermata e perquisita una BMW con un uomo a bordo. Un'altra perquisizione è in corso in un altro punto di questa via, che è molto lunga, che taglia tutto il quartiere, però tanto dicono i siti belgi, le due operazioni non sarebbero collegate. Intanto, come hai detto tu, Salah Abdeslam ha riferito tramite il suo avvocato che vorrebbe rientrare al più presto in Francia per spiegare le sue implicazioni negli attacchi del 13 novembre, e anche l'avvocato appunto ha detto vuole andare in Francia nel più breve tempo possibile, ha già presentato vuole presentare la richiesta al giudice istruttore per accelerare i tempi. Lo stesso avvocato Sven Maria era stato aggredito ieri da uno sconosciuto che l'accusava di sostenere un terrorista, e per questo ha chiuso il suo studio per motivi di sicurezza. Sul fronte indagini, come avete detto, si cerca un secondo uomo che avrebbe aiutato Khalid Attaoui nella stazione di Malbec. Le telecamere della sicurezza lo hanno ripreso, parlava con Khalid e con un borsone in mano, ma l'uomo poi non sarebbe uscito sul metro dove è avvenuta l'esplosione. È stato diramato un kit tracciato a computer per questo. Intanto, un'altra notizia ancora: sembrerebbe che i fratelli El Bakrawi avrebbero tenuto d'occhio a lungo la centrale nucleare che è vicino a Bruxelles. Risalirebbero a poco dopo gli attentati di Parigi, delle riprese effettuate con una telecamera nascosta dove avrebbero registrato i movimenti del direttore del programma di sviluppo e ricerca nucleare. Quindi ancora un elemento che dimostra ancora una volta come le due stragi, quella di Parigi e quella di Bruxelles, siano effettivamente collegate. Un ultimo aggiornamento: Ibrahim El Bakrawi, uno dei due fratelli kamikaze che ha fatto esplodere a Bruxelles, sarebbe stato espulso due volte dalla Turchia, non solo una come aveva annunciato ieri il presidente turco Erdogan. Ti ringrazio, grazie a Maura Bertanzon con questo aggiornamento e con questo ultimo racconto che parte appunto dalla doppia espulsione avvenuta in Turchia, è l'ennesima dimostrazione dei grandi buchi che ci sono stati nel sistema di intelligence e nei meccanismi di prevenzione. In parte c'è stata un'evidente sottovalutazione di alcuni allarmi da parte dell'intelligence belga, allarmi arrivati da altri servizi di altri paesi, dall'altra il mancato coordinamento tra le forze di polizia europee, soprattutto in merito allo scambio di informazioni. Snodi sui quali si tornerà oggi nel Consiglio dei Ministri degli Interni che si riunisce prima di andare proprio di nuovo a Bruxelles per sentire che cosa sta succedendo, che cosa ci si attende da questo Consiglio degli Interni. Vediamo di fare un punto. 28 paesi, 28 servizi segreti che non comunicano tra loro, 28 legislazioni diverse, se non di più. L'intelligence unica europea rimane ancora una chimera. E pensare che il 21 settembre del 2001 il Consiglio europeo straordinario, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, chiedeva agli Stati di condividere tutte le informazioni utili sul terrorismo sistematicamente e senza indugi. 15 anni sono passati e ben poco è stato fatto. A gennaio presso Europol è stato avviato il Centro di Eccellenza Antiterrorismo Europeo, ma il budget è limitato e i dati su cui lavorare sono ancora pochi. C'è poi Eurojust, un pool di 28 magistrati, uno per ogni paese, che dovrebbero coordinarsi tra loro, ma anche questa collaborazione non decolla. Esiste il SIS, lo Schengen Information System, un database centralizzato che collega i consolati dei paesi Schengen, ma SIS e Europol non si parlano ancora in modo dovuto. C'è poi il famoso PNR, il registro europeo dei dati dei passeggeri, la cui entrata in vigore è ancora subordinata a un voto dell'Europarlamento, che tarda ad arrivare. Insomma, gli strumenti ci sarebbero, ma come ha detto il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, Gilles de Kerchove, sono ancora troppi gli ostacoli tecnici, giuridici, ma soprattutto culturali e psicologici che impediscono lo scambio di informazioni tra paesi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E molti dubitano che questi ostacoli dei quali ci parlava Alessandra Schepisi possano essere superati oggi nell'incontro che si svolgerà tra i ministri degli interni proprio a Bruxelles, dove si trova il nostro inviato Sergio Nava, che ne seguirà i lavori. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, mi senti condividere la tua anticipazione, infatti in 2 ore questo vertice dovrebbe durare solamente 2 ore, quindi il rischio concreto è che i ministri della giustizia e dell'interno europei sostanzialmente si limiteranno a una dichiarazione di appoggio al governo belga, di condanna degli attacchi terrorismo, cordoglio dell'Unione Europea, ma non andranno molto oltre. Il rischio concreto anche perché appunto le idee, come dire, non mancano. Il servizio di Alessandra Schepisi poco fa sulle misure che ci sono e che ancora, e sui tasselli che ancora dovrebbero essere incasellati, ci sono, ma sostanzialmente non occorre una volontà di arrivare a questo. Allora, proviamo a fare un po' di ordine. L'idea è quella di puntare su un maggior coordinamento degli esperti antiterrorismo reali, una reale integrazione dei database a disposizione delle autorità di sicurezza. C'è la questione del PNR passeggeri aerei, su cui spinge la Francia, ma il Parlamento europeo frena. Ieri la richiesta molto forte della Commissione europea di un reale coordinamento delle intelligence, la stessa Commissione europea che ieri ha fatto una lista della spesa delle priorità che ancora mancano all'implementazione, ve le leggo rapidamente: un piano d'azione sul finanziamento contro il finanziamento dei terroristi, un piano d'azione sugli esplosivi e sulle armi da fuoco, queste cose che occorre implementare, ma ci sono anche delle proposte che devono ancora essere adottate, come la proposta della Commissione per una direttiva sul terrorismo, o lo stesso PNR, un regolamento nuovo per Europol, e anche il pacchetto sui confini esterni, cioè l'idea di avere una vera e propria guardia costiera e marittima europea. Tanti gli argomenti sul piatto, difficilmente oggi si arriverà a qualcosa. Si spera che quantomeno ci si dia una roadmap per arrivare a veramente mettere in pista un servizio di intelligence, di scambio di informazioni europeo che eviti queste falle clamorose. Abbiamo visto nel solo caso tra Turchia, Belgio, Olanda hanno poi di fatto reso possibile a un terrorista di andare a farsi esplodere in aeroporto. È tutto. Ti ringrazio, grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento dal Consiglio degli Interni e appunto vedremo se ne emergerà qualcosa. Intanto, per tornare alla pura cronaca, 48 ore dagli attentati, la stessa identificazione delle vittime resta estremamente difficile. Abbiamo detto che la conta somma 32, 300 feriti, di cui oltre 60 molto gravi. A questa difficoltà di identificazione è dovuta l'incertezza sulla sorte dell'italiana Patricia Rizzo. Siamo sempre senza notizie di Lisbeth. Cerchiamo la nostra amica Jenny. È sparita dal 22 marzo. Era all'aeroporto. Sono 48 ore che non sento mio fratello Yves. E poi Gilles, Stephanie e Justin. Aline, una bella ragazza di 29 anni. Si allunga la lista dei dispersi dopo gli attentati di Bruxelles. Familiari e amici li cercano, scrivono sui siti, vanno nei due ospedali dove si trovano le salme. Tra loro c'è l'italiana Patricia Rizzo, funzionaria europea che dopo l'esplosione alla metro di Malbec non ha più dato notizie. Una lista ufficiale delle vittime ancora non c'è. Al momento solo 3 persone sono state identificate. Una peruviana di 36 anni e i due belgi, Leopold Echt e Olivier de l'Espèce. Ma nessun riconoscimento è ancora ufficiale, ci spiega l'ambasciatore Vincenzo Grassi. Per il momento, anche per i casi più conclamati, in cui quindi è stata di fatto possibile negli ospedali identificare vittime in condizioni migliori, anche quelle ufficialmente non sono state ancora certificate dal procuratore federale, anche perché soprattutto nel caso dell'attentato nella metropolitana il procuratore federale ha anche una esigenza di tipo investigativo, nel senso che tra le vittime potrebbe esserci un attentatore suicida. Non si sa dunque quanto durerà l'attesa per chi cerca i propri congiunti dispersi, tanti rispetto alle vittime finora ritrovate. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fronte italiano, da questo punto di vista, tiene conto di due elementi. Da una parte il rafforzamento delle misure di sicurezza, del quale vi abbiamo lungamente parlato in questi ultimi giorni, e l'attenzione che si concentra anche sulle comunità islamiche in Italia. Più avanti parleremo con Mahmoud Asfah, che è l'imam della zona di Via Padova a Milano, una delle zone a più alta densità di immigrazione, soprattutto di immigrazione appunto di religione musulmana, per capire un po' qual è la sensazione all'interno della comunità e se viene fatto qualcosa all'interno della comunità per prevenire la radicalizzazione. E poi c'è il fronte del turismo, il fatto che gli attentati portino le persone ad annullare le prenotazioni. Andrea Viale ha intervistato Bernabò Bocca, un presidente di Federalberghi, Federalberghi che ha diffuso in realtà delle previsioni piuttosto ottimistiche per questo fine settimana di Pasqua. Sentiamo. Sono dati positivi, è vero che i nostri dati riguardano gli italiani in vacanza, ma noi stimiamo saranno circa 10 milioni gli italiani che si muoveranno durante le vacanze di Pasqua, e il dato più interessante è che il 91% di questi 10 milioni trascorreranno le vacanze nel nostro paese, quindi questa è la riconferma di una tendenza che noi già abbiamo visto nell'ultimo periodo, cioè una riscoperta dell'Italia da parte dei turisti italiani. Ovviamente quello che è successo a Bruxelles desta preoccupazione più che pessimismo, noi però abbiamo piena fiducia per quanto riguarda le nostre forze dell'ordine, le nostre istituzioni, e non riteniamo poi che l'Italia sia più a rischio di altri paesi europei, ecco, per cui noi continuiamo a guardare il 2016 con un ottimismo assoluto. Come albergatori, quanto vi preoccupa invece l'allerta del Dipartimento di Stato americano che ha invitato i cittadini americani a non andare in Europa per rischi di nuovi attentati? Ci sono state già delle cancellazioni? Al momento no, il tema non è tanto le cancellazioni quanto un eventuale rallentamento delle prenotazioni. Anche dopo Parigi il Dipartimento americano fece la stessa comunicazione, e devo dire che dopo una o due settimane di rallentamento delle prenotazioni siamo tornati in una fase di normalità. Io credo che d'altronde noi dobbiamo imparare purtroppo a convivere con una situazione come quella attuale. L'importante è, ecco, che in Italia non accada nulla e che ci sia una garanzia come quella che le istituzioni ci stanno dando di controllo del territorio. Passiamo agli altri argomenti, alla finanza, poi più avanti torneremo su questi temi, iniziando ovviamente, anzi il tema di oggi è sicuramente l'annuncio della fusione tra la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare. All'indomani i titoli perdono esattamente lo stesso in borsa, la Popolare di Milano perde il 5,4%, il Banco Popolare il 5,8%, insomma poca differenza. Questa mattina c'è stata una conference call con gli analisti dove sono stati chiariti alcuni punti, tra cui il fatto che a quanto pare non ci saranno licenziamenti. Facciamo il punto con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Come dicevi, ieri è arrivato il tanto atteso via libera da parte sia della BCE, pur preliminare, sia da parte dei consigli di amministrazione delle due banche all'avvio del progetto di integrazione. Come dicevi, la borsa ha reagito male, titoli pesanti, inizialmente soltanto il Banco Popolare, che è atteso da un aumento di capitale da 1 miliardo in modalità che verranno definite nei prossimi mesi, un po' meglio BPM, poi hanno ritracciato entrambi tutti e due giù. Questo perché? Perché probabilmente oggi nel corso della conference call sono emerse due cose che solitamente non piacciono al mercato. Il primo, il tema che accennavi dei licenziamenti, non ce ne saranno, è cinico il mercato quando le aziende annunciano piani di riduzione del personale, il mercato è contento e compra, diversamente vende. Secondo aspetto, il piano dei crediti deteriorati, è stato uno dei temi più discussi con la BCE nel corso della trattativa di questi mesi. Questa mattina i due amministratori delegati hanno annunciato che la nuova banca venderà 10 miliardi di sofferenze nello spazio di 3 anni. Questo potrebbe evidentemente portare a delle svalutazioni, a delle rettifiche ulteriori, quindi a discapito della redditività. Queste però sono le primissime impressioni del mercato. È chiaro che il percorso è soltanto all'inizio, non dimentichiamo che ci saranno peraltro anche due passaggi assembleari sia da parte del banco che della BPM, che sono ancora popolari e che quindi dovranno chiamare a raccolta migliaia di soci chiamati ad approvare il progetto. Vedremo come andranno dunque anche queste assemblee. Grazie a Marco Ferrando intanto per questi aggiornamenti. Alle 13.30 poi faremo un punto più in generale sui mercati, che oggi, vi dico, sono negativi. I cali sono superiori all'1%, ma non solo in Italia, un po' in tutta Europa. Passiamo ad un argomento più ameno. Adesso una mostra che inaugura domani, una mostra di Miró al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Sta seguendo l'apertura per la stampa la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno Simone, 50.000 le prenotazioni per Joan Miró, La forza della materia, oltre 100 opere realizzate tra il 1931 e il 1981 che raccontano in particolare l'importanza che Miró ha dato alla materia, all'uso di materiali inconsueti e tecniche innovative per infrangere le regole. 4 sezioni arricchite da video, musica e realtà virtuale. Apertura al pubblico, come dicevi, domani, aperta anche a Pasqua, Pasquetta 25 aprile, 1 maggio fino all'11 settembre. Con Joan Miró intanto il MUDEC festeggia il primo compleanno, 27 marzo 2015 apertura delle mostre, 27 ottobre apertura del museo, 400.000 persone sono passate di qui in un anno. Infine una notazione, insieme alla mostra su Joan Miró, apre anche al MUDEC Italiani sull'oceano, storie di artisti nel Brasile moderno e indigeno alla metà del Novecento. Per ora dal MUDEC tutto. Grazie Marta Cagnola per questo racconto e per questa mostra che apre domani. Abbiamo degli aggiornamenti importanti da Bruxelles, ci arriviamo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ci sono nuove operazioni della polizia belga nella zona di Ixelles. La zona è stata evacuata e transennata, un uomo sarebbe stato fermato. Nel frattempo Salah Abdeslam ha accettato l'estradizione in Francia. E su 300 feriti negli attentati, almeno 61 sono gravissimi, dice il ministro della sanità belga, quasi impossibile al momento identificare i cadaveri. In Iraq intanto l'esercito prova ad avanzare contro la roccaforte ISIS di Mosul. In Siria sarebbe stata riconquistata dai militari di Assad una parte di Palmira. È stato trovato con 500 grammi di cocaina, per la legge sono 3.100 dosi, ma il giudice lo assolve, è ricco, si tratta di uso personale, ne parleremo tra poco con l'avvocato. Nessun licenziamento dalla fusione BPM Banco Popolare, dicono i vertici, i titoli perdono oltre il 5%. E dunque andiamo a Bruxelles, perché al di là delle notizie che vi abbiamo dato in merito alle operazioni di polizia in corso e che già vi abbiamo dato in apertura con Maura Bertanzon, ci sono notizie politiche importanti che arrivano proprio in questi minuti. Sergio Nava, il nostro inviato. Sergio. Sì, un aggiornamento flash, perché secondo i media belgi si sarebbe dimesso il ministro dell'interno belga Jean Jambon, ma a quanto pare il premier Charles Michel avrebbe respinto le dimissioni. Comunque è certo che le ha presentate, Jean Jambon ha presentato le sue dimissioni da ministro dell'interno belga. Ricordiamo anche che proprio a causa delle falle nelle inchieste che sono verificate all'interno dei servizi segreti e della polizia belga, il Parlamento sta chiedendo, a quanto pare sarà concesso, una commissione di inchiesta parlamentare proprio per fare luce su quanto non ha funzionato anche in occasione di questi attacchi. Comunque per il momento dimissioni per ora respinte del ministro dell'interno belga Jambon. È tutto. Grazie al nostro inviato a Bruxelles Sergio Nava per questo aggiornamento. E adesso adesso ci spostiamo a Milano, per l'esattezza ci spostiamo a Via Padova, è una zona della città ad alta densità di stranieri, non abbiamo dati demografici esatti, quello che possiamo dire per darvi la misura è che circa il 50% delle imprese là, tra ovviamente negozi, esercizi commerciali, ma anche imprese in genere, circa la metà è di proprietà di stranieri, è stata fondata da stranieri, quando la percentuale normale è circa del 25%. È anche una zona ad alta densità di persone di religione musulmana, qualcuno l'ha definita in queste ore una delle Molenbeek italiane. Molenbeek è il quartiere belga dove, come sapete, si rifugiava Salah Abdeslam. Abbiamo in linea con noi Mahmoud Asfa, che è l'imam di Via Padova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei sapere da lei come la sua comunità ha accolto quello che è avvenuto a Bruxelles. L'abbiamo accolto come sono stati anche precedentemente gli attentati a Parigi. Abbiamo condannato fermamente che questi attentati che danneggiano la fede, la nostra religione. Questi attentati sicuramente non hanno a che fare con l'Islam come religione. Queste persone neanche non sono riconosciute anche da parte delle comunità dove vivono, e quindi non frequentano moschee, non frequentano religione, e addirittura alcuni mi dicono che hanno a che fare con lo spaccio di droghe e di altre cose. Senta una cosa, c'è un modo, Asfa, perché noi la conosciamo, sappiamo che quello che si definisce un moderato, c'è un modo per identificare elementi di radicalizzazione all'interno delle vostre comunità e anche segnalarli eventualmente? E voi lo fate? Ma questo è certo, lo facciamo ogni tanto quando succede qualche persona che non ha a che fare con magari si capisce che non è una persona per bene, siamo sempre in contatto con le forze di sicurezza, l'intelligenza italiana, perché questo è un compito, diciamo, doveroso, perché danneggia non solo la società, diciamo, cittadina italiana ad hoc, ma danneggia anche l'immagine della nostra fede. Senta, Asfa, qualcuno vi ha definiti in queste ore, no? Ha definito Via Padova, l'ha inserita in uno di quei quartieri che possono essere considerati la Molenbeek d'Italia. Come si trova con questa definizione? Questo è quello che veramente, diciamo, ma non solo questo, diciamo, anche i mass media, quando abbiamo letto ieri sul giornale che cacciamo l'Islam dalla casa nostra, e quindi i mass media che vogliono gonfiare. Anzi, io secondo me Via Padova negli ultimi anni è migliorato moltissimo, perché ci sono tantissime associazioni italiane e non hanno collaborato o contribuito per il sociale. Questa giunta di Pisapia hanno lavorato veramente hanno appoggiato anche queste associazioni, anche se non nel modo sufficiente, ma hanno lavorato moltissimo e migliorata moltissimo Via Padova. E potrebbe essere un laboratorio veramente di pacifica convivenza tra le diverse culture, le diverse etnie e le diverse religioni. Paragonare Via Padova con quello che lì è un grosso errore, perché lì, diciamo, Via Padova ci sono diverse etnie, diverse culture, diverse religioni, non solo l'Islam o i musulmani, ci sono le latini americani, ci sono diverse etnie, ma lì, diciamo, a Bruxelles sono dei quartieri ghettizzati, i musulmani sono ghettizzati in quei quartieri, e quindi paragonare Via Padova credo che è un grosso errore. Per chiudere, Asfa, qualche ascoltatore ci scrive, lei insomma lo immaginerà, cioè, quando si parla di queste cose, dice: ma no, in realtà non li denunciano, li nascondono. Sì, nascondiamo chi, scusi? Chi si radicalizza? Ma comunque, senti, noi nella nostra moschea, nella nostra realtà, nella nostra comunità, siamo trasparenti. Poi non è il compito nostro di fare polizia o fare i servizi segreti. Noi, qualsiasi persona che viene sospetto, subito siamo in contatto, potete anche chiedere la collaborazione all'intelligenza o ai servizi segreti italiani. Non nascondiamo questo, noi non siamo non nascondiamo niente e siamo trasparenti, ma io vorrei aggiungere che questo è veramente quello che è accaduto, diciamo, a Belgio, perché anche la malgestione degli immigrati, perché sono geni immigrati presenti da più di un secolo in Francia. I cittadini, diciamo, le generazioni successive, che sono i figli degli immigrati, sono nati cittadini europei, sono nati, cresciuti in Europa, e quindi sono francesi, sono belgi, sono italiani, e non sono stati mai, diciamo, presi in considerazione, sono tralasciati, sono figli cresciuti ai margini della società, nella delinquenza totale, quali rifiuti della società, nei ghetti gestiti dalla malavita. Questi ragazzi faranno, diciamo, il terreno fertile per i gruppi terroristici che vogliono sporcare, vogliono magari arrivare ai loro scopi. Per fortuna l'Italia ancora non ha questo fenomeno, perché i musulmani sono diffusi in tutta la città, ma non sono ghettizzati nei paesi, nei ghetti. E quindi l'Italia ha tutte le condizioni, diciamo, per evitare questo futuro. Bisogna veramente non ghettizzare l'immigrazione, bisogna moltiplicare gli studi sociologici mirati, che tendono veramente a stabilizzare le comunità degli immigrati, non negare, diciamo, un diritto sancito dalla Costituzione, coinvolgere i figli degli immigrati in tutti gli eventi e farli sentire veramente figli di questa società, che l'Italia e Milano può ancora contribuire a fare questo lavoro che va bene per tutti. A fare tutto questo. La ringrazio. Grazie a Mahmoud Asfa, che appunto è l'imam della moschea di Via Padova a Milano. Poi nei prossimi giorni sentiremo anche altri esponenti di queste comunità per capire dove si annidano i rischi, e sostiene Asfa che appunto a Via Padova non ci sono, non abbiamo ragione di non credergli, nonostante quello che qualcuno ci scrive, almeno al momento evidentemente. Giovanni Capuano in studio con me, ciao Giovanni. Eccomi. Per continuare a parlare in realtà di tutto questo e soprattutto della partita di questa sera tra Italia e Spagna con misure di sicurezza ultra rafforzate. Sì, evidentemente l'attentato terroristico a Bruxelles ha fatto alzare il livello di allerta, che era già alto intorno a Italia e Spagna. Questa sera, tra l'altro, è una serata particolare per Udine, perché c'è la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo stadio che è stato completato. Lo abbiamo già visto in campionato, ma questa sera ha un valore simbolico particolare. Ci sarà quasi certamente il tutto esaurito con 25.000 spettatori e da quanto ha detto la questura di Udine non sarà lasciato nulla al caso. Entreranno ad esempio in azione anche team di artificieri intorno allo stadio, ci saranno unità cinofile antiesplosivo, ci sarà l'utilizzo dei metal detector, e proprio per questo viene chiesto ad esempio ai 25.000 spettatori che questa sera andranno allo stadio per Italia-Spagna di muoversi per tempo, proprio per evitare l'effetto coda all'esterno della struttura nei minuti subito precedenti l'inizio della partita, che lo ricordiamo è alle 20.45. Negli ultimi due giorni ci sono state numerose riunioni operative tra i funzionari della questura e i responsabili logistici delle federazioni d'Italia e Spagna. È anche un po' una delle tante prove in vista dell'europeo. Noi sappiamo e abbiamo anche letto che ad esempio l'Italia viaggerà con al seguito funzionari italiani che dovranno fare da raccordo con le autorità transalpine. È una pratica che già accade per l'Italia da un paio di anni, ma in occasione della trasferta di giugno e luglio in territorio francese questo team di specialisti verrà rafforzato. Tornando a Udine questa sera, tutti i controlli sono già scattati con la scorta delle due squadre quando sono arrivate in ritiro nelle ore scorse, e già in questi minuti stanno cominciando le operazioni di bonifica all'interno e all'esterno dello stadio, questo per cercare di garantire che questa sera Italia-Spagna sia soltanto un'amichevole, si parli soltanto di calcio e non ci sia occasione per parlare d'altro. Vediamo, speriamo che sia una bella partita e senza alcun problema. Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo, tra un attimo ci ritroviamo per parlare di mercati e poi cambiamo argomento decisamente. Parleremo di questa vicenda che vi accennavamo nei titoli, una sentenza che ci ha incuriosito, piuttosto strana. Un uomo è stato trovato con mezzo chilo di cocaina, 3.100 dosi. Ebbene, dato che è ricco, il giudice ha deciso è per uso personale, non è spaccio, e quest'uomo è stato assolto. Parleremo col suo avvocato. Avvocato, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nuove operazioni della polizia belga nella zona di XL, zona che è stata evacuata e transennata. Un uomo sarebbe stato fermato. Il ministro dell'interno belga offre le dimissioni, sono state respinte. E su 300 feriti negli attentati, almeno 61 sono gravissimi, dice il ministro della Sanità. Quasi impossibile al momento identificare i cadaveri, grande incertezza ancora sulla sorte dell'italiana dispersa. In Iraq l'esercito prova ad avanzare contro la roccaforte ISIS di Mosul, in Siria sarebbe stata riconquistata dai militari di Assad una parte di Palmira. Nessun licenziamento dalla fusione BPM Banco Popolare che è stata annunciata ieri sera, lo dicono i vertici. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci qua per raccontarvi adesso una storia italiana, una storia che arriva da Firenze e che arriva dal Tribunale di Firenze. Un uomo il 21 febbraio del 2015, quindi l'anno scorso, poco più di un anno fa, viene arrestato dalla Guardia di Finanza, viene fermato, gli vengono trovati 471 grammi, sostanzialmente mezzo chilo di cocaina, corrispondente, secondo la legge, a poco più di 3.100 dosi medie giornaliere, insomma quanto basta per farsi per 9 anni, per così dire. Succede questo, si va ovviamente davanti al GIP e il GIP decide, bene, quest'uomo non ha in casa bilancini, non ha strumenti per misurare la coca, è ricco, ha dei soldi, è ricco di famiglia, ha ricevuto un'eredità e quindi lo manda assolto dall'accusa di spaccio. Abbiamo in linea con noi l'avvocato Massimiliano Manzo, che è l'avvocato di quest'uomo. Buongiorno avvocato e buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, capirà come a molti ascoltatori è suonata piuttosto paradossale questa sentenza, questa decisione del GIP. Sì, ora il giudice che ha emesso questa sentenza è un giudice molto preparato del Tribunale di Firenze. La vicenda è diciamo sostanzialmente quella che lei ha detto, ci sono dei particolari in più, cioè qua diciamo l'unico dato che faceva propendere per una possibile detenzione fin in spaccio era il dato ponderale, no? Quindi una quantità piuttosto elevata di sostanza stupefacente. Diciamo che penso sia stata premiata la scelta della difesa e dell'imputato di adire il rito abbreviato condizionato, dove abbiamo introdotto 3 prove a mio avviso importanti. C'è, sì, il commercialista che ha dimostrato anche con documentazione che questi denari arrivavano dalla famiglia del diciamo di chi deteneva la sostanza. Abbiamo portato il padre che aveva fatto importanti elargizioni verso il figlio nel corso degli anni e che erano state versate in questo libretto, peraltro libretto al portatore con tanti denari e anche secondo il giudice, io ho letto poi la attenta motivazione del giudice, insomma è un po' strano che uno spacciatore o una persona che vuole spacciare versi denari su un libretto, di solito si muovono tutto per contanti. E poi l'altro elemento è stato portare un medico, uno psicologo esperto di cura delle persone sottoposte a terapia per l'assunzione di stupefacenti, il quale ha dichiarato che poteva trattarsi di un caso di craving, che è una sorta di astensione forzata da sostanze che porta poi a fare crupi. Sì, ecco, lei capisce, avvocato, che suonerà strano a molti, nel senso che probabilmente c'è gente che è finita in galera per spaccio o per la detenzione magari nemmeno di cocaina ma di droghe leggere, tutto sommato tenute come scorta e corrispondenti al proprio reddito, quindi forse è questo che stride, no? Diciamo che a mio avviso va letta nell'interesse questo episodio, perché ci sono state anche delle perquisizioni, no, a casa di questo imputato, certo, all'epoca indagato, dove non è stato trovato niente. Ora è veramente strano che una persona che dedita alla cessione non abbia né un bilancino di precisione né delle, diciamo, degli strumenti per termosaldare o delle dei cielo, fanno e quant'altro. Quindi diciamo, qua l'unico elemento veramente poteva far propendere. Sì, poi capisco, capisco, avvocato, che ovviamente è il suo assistito, però molti ascoltatori ci scrivono, dicono, insomma, suona un po' da giustizia per ricchi questa cosa qua. Giustizia per ricchi? No, secondo me no, perché uno degli indici della detenzione ai fini di spaccio è proprio l'essere trovato in possesso di sostanze per determinati importi, sì, e valori, senza avere ovviamente un'attività lavorativa lecita. Allora in quel caso è un indice, è un indizio, è un indizio chiaramente. Cioè, questa... allora avvocato, sì, no, ho capito il suo punto. Io purtroppo devo dare la linea al traffico, anche se avrei voluto approfondire qualcosa di più. Comunque la storia ci sembrava interessante, ve l'abbiamo segnalata in questo modo. Dunque andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è come sempre a quest'ora Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.